Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Penso che lo spunto progettuale del governo abbia un senso, cioè quello di mobilitare un po' di esperienze di volontariato civico per fare un lavoro nei territori. Ho visto delle dichiarazioni molto accese, naturalmente bisogna che questi volontari siano formati, che stiano dentro dei percorsi che in particolare i comuni devono promuovere, però sinceramente penso che possa essere un passo se lo si costruisce per bene. Questo che parla, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è il esponente di spicco del Partito Democratico Maurizio Martina, e l'argomento è quello degli assistenti civici, che sta molto agitando la politica e non solo in queste ultime ore. Cioè sarebbero i 60.000 volontari che, secondo un progetto in primis del Ministro degli Affari Regionali Boccia, in accordo col Presidente dei Sindaci, che è De Caro, sindaco tra l'altro di Bari, dovrebbe aiutare questa carica di 60.000 volontari, dovrebbe aiutare i sindaci a rispettare le regole sul distanziamento sociale. Però c'è in atto uno scontro nella maggioranza, tanto da avere indetto un vertice che dovrebbe essere ancora in corso in queste ore. E tra l'altro il Viminale, cosa piuttosto grave, ha fatto sapere oggi di non essere stato minimamente informato il Ministero dell'Interno di questo bando per 60.000 volontari, per una funzione un po' di ordine pubblico, no? Che dovrebbe essere proprio in capo al Viminale, naturalmente. Quindi questo tema è il nuovo oggetto del contendere, perché secondo alcuni sono inutili, secondo altri sono invece molto utili e essenziali, secondo qualcun altro addirittura rischiosi, perché potrebbero diventare degli sceriffi dei cittadini comuni, che diventano sceriffi rispetto ad altri cittadini. Quindi è una cosa criticata in realtà da maggioranza e opposizione, e cercheremo di capire, di approfondire un po' questo tema, e anche di vedere che cosa emergerà poi da questo vertice di maggioranza che è stato indetto proprio per le polemiche che man mano sono cresciute durante la giornata. Ci sarà, a questo proposito, anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che si è espresso in modo piuttosto sfavorevole, ma capiremo perché, a questi assistenti civici, questo dovrebbe essere il termine, l'espressione giusta. Poi, fra le altre cose, parleremo anche della app Immuni, famosa e attesa app Immuni, che forse dovrebbe essere in fase di sperimentazione nei prossimi giorni già in 3 regioni tra nord, centro e sud. Quindi allacciate le cinture, che si parte qui Effetto Notte già con una settimana con una puntata ricchissima di argomenti. Prima la sintesi della giornata, poi gli ospiti con gli approfondimenti, e per i vostri commenti, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp da inviare come sempre al solito numero, che è 349 238 6666. I dati sul Covid-19 in Italia: i nuovi contagiati sono 300, mai così pochi dal 29 febbraio, 92 decessi in 24 ore, più di 1.500 i guariti. E in Lombardia confermati 0 decessi di ieri, oggi sono 34. Cade intanto il velo su Immuni, ecco l'app. Il caso degli assistenti civici è il nuovo motivo di scontro, criticato da maggioranza e opposizione. Il Viminale sottolinea di non essere stato informato. Intanto il sindaco di Milano vieta l'asporto delle bevande alcoliche dalle 19. Il coronavirus nel mondo: diversi paesi allentano il lockdown, ma la Svezia supera i 4.000 morti. Da oggi fase 2 anche in Spagna e Giappone, fine emergenza. Le pressioni di Pechino su Hong Kong: Taiwan si schiera con i manifestanti, ancora scontro tra Stati Uniti e Cina. A Pompei una nuova scoperta, il mistero della piccola mummia. Calcio, Serie A senza certezze, lo stop di Ibrahimovic preoccupa il Milan. Partiamo quindi, come sempre, da tanto tempo, dai dati della protezione civile sul coronavirus in Italia. Sono 55.300 i malati di coronavirus nel nostro paese, 1.294 meno di ieri. Sono 92 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. I morti salgono così in numero totale dall'inizio della pandemia a 32.877. Ieri l'aumento era stato di 50 vittime, con la Lombardia che non aveva segnato decessi. Oggi la regione ne comunica 34. E sono saliti a 141.981 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.502. A fronte di questi numeri resta, fra gli altri, il nodo della movida. in tante città, si ragiona su come effettuare maggiori controlli, evitare gli assembramenti. Da qui l'ipotesi degli assistenti civici, 60.000 persone volontarie da mettere in campo, ma il Ministero dell'Interno frena. Il Viminale prende le distanze dagli assistenti civici. Non siamo stati informati, fa sapere il Ministero dell'Interno, il cui auspicio è che l'introduzione di queste nuove figure non comporti compiti aggiuntivi per forze di polizia e prefetture. Nati da un accordo fra Ministero degli Affari Regionali e Comuni, gli assistenti dovrebbero gestire gli ingressi negli spazi pubblici e far rispettare il distanziamento sociale. Per il loro reclutamento in settimana dovrebbe essere lanciato un bando rivolto a disoccupati, cassa integrati e percettori di reddito di cittadinanza. Si parla di 60.000 persone. Non sono ronde né sentinelle anti-spritz, ma volontari. Non potranno chiedere documenti, ma solo avvisare vigili e forze dell'ordine, fa sapere il ministro Boccia, la cui idea però trova pochi consensi nella stessa maggioranza. 5 Stelle e Renziani si dicono contrari, perplessità emergono anche dal PD, l'iniziativa piace invece ai sindaci, ma critiche arrivano anche da diversi governatori e da tutto il centrodestra, che parla di ennesima pagliacciata del governo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nel tardo pomeriggio di oggi, sulla cosiddetta movida, è arrivata la decisione del sindaco di Milano Sala. Dopo le 19 non sarà permesso la vendita di alcolici e superalcolici per asporto dai bar, e quindi potranno tenere il loro servizio, i tavolini, i ragazzi e non solo ragazzi seduti, ma non potranno vendere per asporto. Poi torneremo a parlarne. Intanto è partita oggi un'indagine epidemiologica su 150.000 persone per stimare il numero delle persone che in Italia hanno sviluppato anticorpi al coronavirus. La durata complessiva di questa rilevazione dovrebbe essere di 15 giorni, ha detto il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo. C'è però un campione anticipatorio di circa 20.000 unità aggiunto su una prima parte dei dati rilevati. Saremo quindi in grado di fornire delle anticipazioni. E comincia intanto in 3 regioni anche la sperimentazione dell'attesa app Immuni per il tracciamento dei contagi, della quale parleremo poi nel corso di questa puntata. Palestre e piscine riaperte oggi in quasi tutta Italia dopo gli anticipi la settimana scorsa in Veneto, Sicilia e Liguria, mentre in Lombardia non apriranno prima del 1 giugno. Distanti almeno 2 metri durante l'attività fisica, misurazione della temperatura all'ingresso e copriscarpe, vestiti nei sacchetti, disinfezione degli attrezzi, doccia con schiuma prima della piscina e almeno 7 metri quadri a testa in vasca. Palestre e piscine hanno riaperto in tutta Italia, con la sola Lombardia che dovrà aspettare almeno il 1 giugno. Alcune voci raccolte a Roma. Ci dobbiamo abituare a queste nuove, diciamo, normative, però bene, bene. È un po' seccante questa cosa che dobbiamo pulire gli attrezzi ogni volta che li utilizziamo. La lezione di 30 persone, io comunque ho deciso di mettere 15 persone in massimo, con una distanza di 2,5 metri a 3 metri. Per il momento siamo in massimo a 6 persone per lezione. In piscina ho visto adesso 1 per corsia, però anche lì nettamente inferiori, siamo oltre il 50%. C'è chi ha avuto la cassa integrazione e chi per una natura contrattuale invece ha avuto il contratto sospeso, ripreso oggi. Un buon 70% rispetto all'affluenza giornaliera quotidiana già è rientrato. Io ho i miei 81 anni, quindi 1 ora e mezza al cardio è molto poco. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo delle novità che riguardano la scuola, accordo chiuso nella maggioranza sui precari per il rientro a settembre, regole stringenti per gli alunni, vertice bis convocato da Palazzo Chigi ieri a tarda ora in videoconferenza. Dare stabilità garantendo merito, la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina rilancia sulla scia dell'accordo raggiunto nella notte sui precari. Abbiamo 78.000 insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo fra concorsi ordinari e concorso straordinario, dice. Ora bisogna chiudere il decreto scuola per dare risposte alle famiglie. Infatti l'accordo raggiunto è una mediazione. Il concorso straordinario per precari da almeno 3 anni ci sarà, ma dopo l'estate, e non sarà più a crocette. Ci sarà una prova scritta con consegna di un elaborato. Nel frattempo i 32.000 docenti di scuola media superiore entreranno in cattedra a tempo determinato direttamente dalle graduatorie dell'istituto, ma non sposta i numeri rispetto ai decreti precedenti, secondo Manuela Pascarella, responsabile del precariato e reclutamento docenti FLC CGL. Non incide sui numeri che erano già fissati, non raggiunge l'obiettivo principale, visto che ci sono 200.000 cattedre scoperte, di ripartire a settembre dopo 3 mesi di sospensione della didattica. Di fatto le assunzioni non ci sono. Regole stringenti per gli alunni che torneranno in banchi a distanza di 1 metro, con mascherine obbligatorie in tutte le classi dalla primaria alle superiori, via solo per le interrogazioni, a 2 metri. Igienizzante e niente guanti, le mense con regole della ristorazione, ingressi a scuola a orari scaglionati e a piccoli gruppi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso all'estero con i numeri della pandemia nel mondo. Una parte della Spagna, comprendente anche i Paesi Bassi, la Galizia e le Asturie, entra nella fase 2, riaprono centri commerciali e pure cinema e teatri, seppur a capienza ridotta. Passano alla fase 1 altre regioni, compresa la città di Madrid, qui i divieti si attenuano ma restano ancora piuttosto rigidi. In Gran Bretagna, dove si contano 118 morti in 24 ore, quasi 37.000 dall'inizio della pandemia, Boris Johnson annuncia che la fase 2 è vicina e il 1 giugno alcune scuole potrebbero riaprire. All'orizzonte, in Germania invece, nessun allentamento delle misure preventive. Berlino intende mantenere le restrizioni sui contatti fino al 5 luglio, nonostante la protesta di alcuni Länder che chiedono lo stop del provvedimento. In tutta la Francia fa discutere la partita illegale che l'altra sera è stata giocata in uno stadio di Strasburgo, con centinaia di spettatori sugli spalti, anche perché per la prima volta dal 14 aprile, seppur di poco, è aumentato il numero dei ricoverati negli ospedali. Dalla Svezia la notizia che i morti ora sono più di 4.000, il 90% aveva più di 70 anni. Nella Cina continentale nessun contagio e nella regione di Wuhan eseguiti 6 milioni e mezzo di tamponi in 10 giorni. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo adesso argomento e andiamo a Hong Kong, dove i manifestanti sono tornati in piazza e al loro fianco anche Taiwan. A Hong Kong sono tornati gli scontri in strada tra la polizia e i manifestanti pro-democrazia. La polizia, con lacrimogeni e idranti, ha disperso ieri migliaia di manifestanti che protestavano contro la legge sulla sicurezza nazionale annunciata dalla Cina, che blocca di fatto le rivendicazioni autonomiste della città-stato. Gli Stati Uniti hanno minacciato sanzioni economiche contro la Cina per ritorsione e oggi il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lian, ha risposto che Pechino prenderà contromisure contro gli Stati Uniti se continueranno a interferire sugli interessi interni riguardo a Hong Kong. A complicare ancora di più il quadro, le dichiarazioni della presidente autonomista di Taiwan, Tsai Ing-wen, che ha promesso sostegno ai manifestanti di Hong Kong contro la repressione cinese. Gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse in questa partita a stare a favore dei manifestanti di Hong Kong e a sostenere le rivendicazioni autonomiste di Taiwan, non solo per una questione di difesa della libertà e della democrazia, ma anche in un quadro più ampio per l'interesse a indebolire la potenza egemonica della Cina. Riccardo Barlama, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia per dire che ancora c'è stallo nel futuro dell'ex Ilva. Altri 10 giorni di tempo per scoprire qual è il nuovo piano industriale di ArcelorMittal per l'ex Ilva. La call conference tra governo, azienda e sindacati non si è chiusa con una rottura, come si pensava, ma con la concessione di un margine di tempo ulteriore ad ArcelorMittal. Il gruppo siderurgico non vuole andare via dall'ex Ilva, ha dichiarato l'amministratore delegato Morselli, e il governo, attraverso il ministro dell'economia Gualtieri, ha affermato che lo Stato è disposto a coinvestire insieme a Mittal nel polo dell'acciaio per farne un punto di riferimento. Gualtieri ha ricordato il numero degli attuali dipendenti dell'azienda, 10.700, quasi ad esplicitare che questo è un paletto della trattativa. Bisogna ora vedere se ArcelorMittal nel nuovo piano confermerà questo numero di forza lavoro, che risale all'accordo di settembre 2018, e nel frattempo, ma soprattutto negli ultimi mesi, il mercato dell'acciaio è crollato. Solo a Taranto più di 3.200 dipendenti sono in cassa integrazione. Per le sigle metalmeccaniche, oltre alla conferma del numero dei lavoratori, servono decisioni aziendali che vadano in una direzione diametralmente opposta a quella del conflitto sinora perseguita. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. Parliamo anche di arte, di mistero, un nome femminile vergato sul muro di Pompei ad altezza di Bimba, scritto Mummia, che racchiude una storia piena di mistero e che nello stesso tempo potrebbe aprire una luce sui facoltosi proprietari di una grande villa suburbana che con le sue terrazze forse arrivava fino al mare. La nuova incredibile scoperta riservata dagli scavi in corso a Pompei, raccontata in esclusiva all'ANSA dal direttore del parco archeologico Massimo Osanna, potrebbe trattarsi di un grande e raffinato complesso di età agustea. Per chiudere, lo sport ancora non ha una data per la sua ripartenza e la Serie A già rischia di perdere uno dei suoi campioni più attesi. Forse già adesso la voglia di spaccare il mondo, forse un fisico che a 38 anni comincia a presentare il conto anche a un re del calcio come lui. Fatto sta che il campionato di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere già finito ancora prima di ricominciare. Colpa di un infortunio a un polpaccio sul finire dell'allenamento a Milanello durante la partitella di chiusura. La paura è che possa essere interessato anche il tendine d'Achille, pure se fonti del Milan escludono questa ipotesi, che se venisse però invece confermata dagli esami strumentali imporrebbe all'asso svedese un lungo stop. Fossero invece toccati solo i gemelli, Ibra potrebbe cavarsela, si fa per dire, con un mese o due. E dire che Zlatan era il più in palla dei rossoneri, essendosi allenato con gli svedesi dell'Hammarby durante il lockdown. Proprio i fastidi al polpaccio del resto lo avevano già fermato a febbraio, quando aveva saltato la gara col Verona ed era rientrato in tempo per giocare il derby. Ora il nuovo KO, che per un fenomeno alla vigilia dei 39 anni è il retrogusto amaro di un verdetto quasi definitivo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, e con questo si chiude questa prima parte della puntata, nella sintesi di notizie più importanti. Adesso cominciamo a approfondirne alcune con gli ospiti. Vedo già diversi vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, sugli assistenti civici. C'è qualcuno tipo Gilberto che dice che assistenti civici sono come i caposala del fascismo, qualcuno dice che così richiamano qualche eco del fascismo, mentre Germana dice: mi sembra umiliante per tutti noi che si debba ricorrere a questo per avere un po' di prudenza e di senso civico delle persone, mentre un altro, Claudio, dice niente di che, semplicemente trasferiamo gli sceriffi dal balcone alla strada, forse quelli che urlavano a chi non portava la mascherina o chi correva ai runner, mentre Giulia dice: non ci trovo nulla di strano, basta che sia fatto legalmente. E così anche Rossella, insomma, tanti messaggi, ma ci sarà tempo tra pochissimo, insomma, di scandagliarne vari. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchissimi come sempre di notizie, aggiornamenti in diretta, della sintesi della giornata, dei vostri anche commenti e riflessioni. La pagina Facebook di Effetto Notte è al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. E poi questo è il momento di iniziare ad affrontare alcuni dei temi in primo piano durante la giornata con gli ospiti. Vedo già adesso che stanno emergendo alcune conclusioni del vertice Palazzo Chigi sul tema del giorno, che è quello degli assistenti civici, che vi dicevo all'inizio. Adesso man mano le leggerò, mi stanno passando, roteando sotto gli occhi una dopo l'altra, ci sarà modo. Comunque, vi dicevo, il tema del giorno appunto è quello che ha acceso fortemente il dibattito politico in questa giornata che si sta volgendo al termine, ma che è anche, diciamo, di tendenza, come si dice, nell'opinione pubblica. Quello è il tema degli assistenti civici, ovvero 60.000 volontari in arrivo per aiutare i sindaci a rispettare le regole del distanziamento sociale. Sapete che da quando è iniziata la tappa 2 della fase 2, la seconda tappa della fase 2, cioè dal 18 maggio, quando sono riaperte anche tutti i ristoranti, bar, locali, eccetera, da nord a sud si è assistito effettivamente ad assembramenti piuttosto preoccupanti, no? Davanti ai locali, in certe vie della cosiddetta movida, sulle spiagge anche. Torino, per esempio, vedevo la rabbia della sindaca Appendino per la folla che si è riunita come per i maggiori eventi per le frecce tricolori. Allora, tutto questo ha provocato irritazione e preoccupazione tra presidenti di regione, i sindaci, i virologi. Una decisione è questa di arruolare i volontari, che appunto ha provocato subito molte polemiche anche all'interno però della stessa maggioranza, non solo quindi tra governo e opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza, tra in particolare PD e Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, che si è detto subito attraverso i suoi esponenti contrario, anche con lo stesso capo politico Vito Crimi, che hanno criticato l'iniziativa e hanno definito questa una fuga in avanti non concordata del ministro PD degli affari regionali, che è Francesco Boccia, concertata col presidente dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio De Caro. Ma quello che, diciamo, può sembrare più paradossale è che poi il Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, quello che presiede appunto all'ordine pubblico, ha fatto sapere oggi di non essere stato informato di questo bando per i 60.000 volontari. Quindi partito questo vertice di governo, adesso stanno venendo fuori alcune dichiarazioni, agenzie che vi dirò. Il presidente dei sindaci De Caro si è detto decisamente favorevole, mentre critici, per esempio De Magistris, sindaco di Napoli, che ha detto qua si finisce col fare gli sceriffi, mentre il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto alcune dichiarazioni, ha detto che non è molto d'accordo, che forse gli assistenti civici possono essere più adatti nei parchi ma non a dissuadere le persone, a controllarle per esempio davanti ai locali, e poi ha detto che ha deciso di vietare le bevande da sport dalle ore 19. Poi dopo sentiremo anche i vari audio, però nel frattempo voglio coinvolgere subito il plurisindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che saluto. Buonasera sindaco. Buonasera e grazie per l'attenzione. Buonasera. Ormai al suo quinto mandato, Leo Luca Orlando, a Palermo. Sono sei, ma non ve neanche cinque. Sono sei addirittura, mamma mia, è proprio... Uno è durato un mese soltanto. Ormai un'acclamazione straordinaria, Palermo vogliono solo Luca Orlando. Allora sindaco, lei però è tra i sindaci che si è detto non molto favorevole, no, agli assistenti civici, perché? Ma mi faccio tenere, come ho tenuto in queste settimane, un profilo politico istituzionale che fa riferimento al mio partito, che si chiama Palermo. Vorrei tanto che fosse anche col nome della regione il partito dei governatori, e che fosse col nome dell'Italia il partito del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo credo sia necessario sempre, soprattutto in tempi di emergenza, e ovviamente questo non impedisce di dire con chiarezza la mia posizione. Io ho manifestato molte perplessità su questo provvedimento, che secondo me va ultrapetita, e mi auguro che si provveda a correggerlo e a precisarlo. Cerco di spiegare per quale ragione io ho molte perplessità su questo provvedimento. In primo luogo perché non c'è dubbio che questa pandemia ci spinge a fare cose nuove, ma soprattutto bisogna fare nuove le cose che già abbiamo. In materia di sostegno in qualche modo al reddito, ma anche di utilizzo a fini sociali, abbiamo il REI, poi abbiamo avuto il reddito di cittadinanza, poi adesso si annuncia il REM. Vogliamo fermarci un momento. Il reddito di cittadinanza prevede già la possibilità per i comuni di poter utilizzare chi ha il reddito di cittadinanza per svolgere i PUC, questi piani di utilità collettiva. Il Ministero del Lavoro ha a febbraio bloccato questo bando, possiamo chiedere di riattivarlo, che riattivandolo, faccio un esempio che si riferisce a Palermo, noi a Palermo abbiamo 12.000 persone che potrebbero, avendo reddito di cittadinanza, svolgere un'attività lavorativa e con finalità sociali. Perché corre il rischio di creare nuovo precariato? Io credo che sia un errore, mi permetto di dirlo, che è andato ultrapetita, si era iniziato a parlare di questa possibilità per, in vista dell'apertura il 15 giugno dei parchi giochi e dei parchi per bambini, che era una cosa piccola e limitata. Questo numero di 60.000 francamente mi lascia assai perplesso. Personalmente, se si riattivano i PUC, il Comune di Palermo non avrà bisogno di questi volontari. Però sindaco Orlando, lei parla appunto di coinvolgere chi prende il reddito di cittadinanza, dice per non creare nuovo precariato, però saranno volontari, non pagati, quindi sì, questi 60.000. Dopo che saranno volontari e non pagati, non pretenderanno di avere un riconoscimento. Allora, perché questo provvedimento, perché non lo si dà alla Croce Rossa, che ha per definizione questo ruolo, in modo da consentire alla Croce Rossa di sopperire ai volontari che vengono meno perché sono tornati al lavoro, e di utilizzare anche altri volontari? Forse sarebbe molto più corretto piuttosto che utilizzare i sindaci come una sorta di parafulmine. Lo dico con molta chiarezza, con molta serenità, ma anche con molta forza. Io credo che, ecco, per quanto riguarda il Comune di Palermo, se ci sbloccano i PUC, noi utilizzeremo chi già prende un reddito di cittadinanza e perlomeno svolge un'attività socialmente utile. Non avremo bisogno di questo, a parte il fatto che pensare che si possa essere, giustamente allarmato dal Ministro dell'Interno, ci possa essere una sorta di ruolo supplente rispetto alle forze dell'ordine, mi sembra che sia una mossa assolutamente non adeguata. A Palermo, certamente, quello che abbiamo chiesto, e credo che tutti i sindaci abbiano chiesto, noi abbiamo bisogno di avere regole chiare e tempestive. Perché lunedì scorso, il 18 maggio, c'è stato questo grande assembramento in tutte le città italiane, perché le disposizioni del governo sono arrivate pubblicate in gazzetta alle ore 14 del 18, quando evidentemente non si può pensare che i giovani rimasti chiusi per lunghe settimane a casa leggono la gazzetta ufficiale per sapere come andare, dove andare e in che misura è consentito. Ma lei pensa, sindaco Orlando, che se fosse stato chiarito in modo diverso quali erano le regole, il divieto di assembramento eccetera, i più giovani la non sarebbero andati? È data da Palermo, perché appena io ho diramato in tutti i modi possibili questa indicazione, ho detto anche gridando che se non rispettavo le regole avrei chiuso per intera zona della città. Oggi la situazione nella città di Palermo, anche il venerdì e anche il sabato, è stata una situazione sotto controllo. Certo, abbiamo chiuso alcuni esercizi commerciali, abbiamo applicato parecchie sanzioni, ma non chiaro, quindi, un volontario. Quindi, che voglio ringraziare per il loro impegno. Quindi lei, sindaco, dice non dobbiamo fare gli sceriffi, non dobbiamo essere troppo repressivi, e in più ci vogliono, semmai, anziché questi volontari, coloro che già percepiscono il reddito di cittadinanza. Da vedo parte di cittadinanza, ovvero ci sono istituzioni gloriose come la Croce Rossa, che hanno fatto e fanno un lavoro straordinario. Gli vengono meno i volontari alla Croce Rossa, benissimo, si consente alla Croce Rossa di avere dei volontari di supporto a coloro che sono un po'. Quindi di mandarli lì, semmai, dice, quei 60.000. Senta, ma non a fare comunque gli apprendisti poliziotti, noi siamo stanchi di chi vuol fare l'apprendista. Però adesso vedo da Palazzo Chigi noi abbiamo i governatori che fanno gli apprendisti virologi, noi siamo stanchi di apprendisti virologi, noi vorremmo attenerci rigorosamente a regole chiare che vengono dal governo, che segue l'indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, punto e a capo. Qui, e avere queste regole tempestivamente. Chiaro, dice per esempio questa nota di Palazzo Chigi, l'iniziativa della sorveglianza volontaria si inserisce nell'alveo di quelle già assunte dalla Protezione Civile che hanno portato a dislocare oltre 2.300 volontari nelle varie strutture ospedaliere, nelle RSA e nelle carceri. Aspetti, questi soggetti volontari non saranno incaricati di pubblico servizio e la loro attività non avrà nulla a che vedere con le attività a cui sono tradizionalmente preposte le forze di polizia, lo spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione appunto sugli assistenti civici. E le chiedo solo, faccio solo un'ultima domanda, sindaco Orlando, poi ci dobbiamo lasciare. Allora, la Sardegna sta chiedendo, poi si dovrà capire nei prossimi giorni se questa cosa è possibile o no, una patente sanitaria per chi vuole andare in Sardegna quest'estate, no? Mi pare che anche il presidente della Sicilia, Musumeci, avesse ventilato un'ipotesi del genere. Lei sarebbe d'accordo nel caso? Con grande rispetto istituzionale al presidente della regione siciliana, che sta dalla parte opposta allo schieramento politico, io vorrei che l'indicazione la desse il governo nazionale per evitare che ci mettessimo a fare, oltre che agli apprendisti stregoni, anche gli apprendisti di capi di governo nazionale. Grazie, sindaco Luca Orlando. Grazie, grazie e buon grazie. Lavoro. Grazie, buona serata. E saluto subito la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, bentornata. Grazie a voi, buonasera. Insomma, Barbara, a me questa cosa degli assistenti civici mi sembra comunque un po' un pasticcio, no? Non solo perché, a parte diverse opinioni tra loro, di sindaci, presidenti di regione, eccetera, ma perché è diventato proprio anche un nuovo motivo di scontro proprio all'interno della maggioranza, e poi perché soprattutto il Viminale, che è il Ministero dell'Interno e quindi quello che si deve occupare anche del mantenimento dell'ordine, no, della prevenzione, eccetera, ha sottolineato che non è stato informato di tutto questo. E quindi si chiede in pratica, anche lo stesso Viminale, il Ministero dell'Interno, chi è che poi deve reclutare questi assistenti civici, quali sono le regole di ingaggio, chi li deve preparare, tra l'altro non dovrà comportare, vedevo una nota del Ministero, compiti aggiuntivi per le prefetture, per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nel controllo del territorio. Chi dovrà scegliere queste persone? Chi dovrà verificare che non abbiano delle pendenze penali, che non abbiano insomma dei reati alle spalle, eccetera? Che dici, Barbara? L'hanno chiamata fuga in avanti il Movimento 5 Stelle, questa del ministro Boccia insieme al sindaco e presidente dell'ANCI. Ma in realtà le critiche sono arrivate un po' da tutte le parti, perché infatti, anche dallo stesso PD, anche nel dal senso PD, che è il partito del ministro Boccia. Il quale invece Stefano, Orfini, ha avuto vari l'appoggio di altri esponenti del suo stesso partito, ma anche dello stesso Movimento 5 Stelle. Quindi, come dire, anche in questo caso la situazione è abbastanza caotica. Allora, qual è il punto? Il punto è sicuramente che Boccia non ha concordato ad esempio con il Viminale questa misura, come tu ricordavi dalla nota diramata dal Ministero di Luciano Lamorgese. Però è anche vero che c'è un tema, secondo me, che ponevo anche ai nostri ascoltatori nei giorni scorsi, ovvero questi poveri sindaci, perché la richiesta, questa proposta di boccia in realtà è una richiesta che arriva dal presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, cioè il rappresentante dei sindaci italiani, che ha detto: caro governo, noi non ce la possiamo fare con i vigili urbani che abbiamo, e chi li presidia le spiagge, e chi va la sera a vedere davanti ai bar, alle vie dello struscio, della movida, a cercare di tenere le persone distanziate? Se io ho un comune che d'estate si riempie di gente perché appunto è preso d'assalto e ho gli stessi vigili urbani che ho di solito, non posso anche pensare adesso alle misure anti-Covid. Qualcuno proponeva di assumere più vigili urbani, Barbara, per esempio Paolo sì, Cento di Liberi Uguali. Gli stessi sindaci ambirebbero ad una misura del genere. Peccato che assumere dei vigili urbani costi, e costa tanto, tant'è che questa misura prevede, come dire, non l'assunzione ma il reclutamento di volontari che non avrebbero nessun tipo di pagamento, di corrispettivo. Non avrebbero. Senti Barbara, ma secondo te non si può, non potrebbe esserci poi il rischio che dei cittadini comuni, volontari eccetera, si facciano un po' guardie e sceriffi degli altri, come era successo per esempio durante il lockdown, no? Se qualcuno andava a correre, sappiamo che non si poteva correre, no, dico da runner, no, aspetta, e qualcuno dal balcone magari ti lanciava delle invettive, degli insulti. Ho visto anche certe scene spiacevoli nei parchi di qualcun altro che aggrediva, prima insulti, un altro che magari non aveva la mascherina, quell'altro poi spintonava, cioè, insomma non c'è questo rischio. Roberta, io no, cioè sinceramente io questo problema per la democrazia, da come dire, le nostre libertà, cioè per la presenza di questi volontari non la vedo, casomai io vedo il contrario, cioè io temo per l'incolumità dei volontari, non perché i volontari siano delle guardie, degli sceriffi che ci vengono lì e ci dicono cosa possiamo o non possiamo fare. Gran parte degli italiani si comporta bene, c'è una minoranza che non si comporta bene, spesso chi non si comporta bene è anche prepotente, per cui il mio timore casomai è che andare da un ragazzone di 1,90 m a dirgli scusa, guarda che non indossi la mascherina, magari quello ha bevuto qualche cicchetto di troppo e il volontario o la volontaria in quel caso rischia pesante. Leggo qualche messaggio. Germana dice: mi sembra umiliante per tutti noi che si debba ricorrere a questo per avere un po' di prudenza e di senso civico alle persone, mentre Raffaele dice: rispetto ai droni sono più utili in quanto nascondono spacciatori e criminali alla vista. Vabbè, fa dell'ironia. Claudio: niente di che, semplicemente trasferiamo gli sceriffi dal balcone alla strada. Simone: tra l'altro, se vengono pagati faranno poi causa per essere assunti senza concorso, se non vengono pagati sarà sfruttamento. Stefano dice: gli steward ci sono già anche allo stadio, non ci vedo niente di strano sulle modalità di reclutamento, vedremo come decideranno di assumerli. Gianluca dice: a Ostia facciamo da tempo come osservatorio ambientale squadre di volontari per monitoraggio in funzione di prevenzione incendi, dall'inizio della fase 2 svolgiamo anche attività di collaborazione con i cittadini per cercare di dare supporto al rispetto delle regole e per evitare il rischio contagio dentro la pineta di Castelfusano. Andrea dice: ciao, io vedo polemica zero. Rossella: io non ci vedo nulla di che, l'importante è che sia fatto come si deve legalmente. E poi invece qualcun altro, tipo Mario, dice: sono andato a cercare una cosa simile e questa l'ho trovata nel fascismo, l'ovra, dice, vero capolavoro. Ma di Burkina, vabbè, sì. Cioè, adesso io, tu sai quanto io adoro i nostri ascoltatori, però veramente l'ovra mi sembra eccessiva, dice. Qui non si tratta, cioè non è che vengono questi signori col manganello e dicono un metro di distanza per favore, è semplicemente una misura, come dire, di suggerimi, per suggerire, e poi anche eventualmente, perché no, io non ci vedo nulla di strano, per richiamare le forze dell'ordine laddove serva, perché se io purtroppo, cioè ciascuno di noi in questi giorni lo sta vedendo, cioè io mi sono ritrovata in situazioni, per esempio, faccio un esempio visto che abbiamo un ascoltatore che è di Ostia, io anche abito ad Ostia e per entrare nella pineta di Castelfusano ho dovuto fare una piccola stradina dove le persone si affollavano senza mascherina. A quel punto io, sapete che cosa ho fatto? Sono tornata indietro e non ho attraversato questo ponte. Però non è giusto, cioè se qualcuno avesse detto a questi signori: scusate, indossate la mascherina, magari Detto da me, non sai ci che sono Barbara, anche questa cosa della mascherina è rimasta un po' ambigua, nel senso che molti virologi hanno detto, ma insomma, finché si è in uno spazio aperto, distanziati, sufficientemente distanziati, non c'è bisogno di avere la mascherina sempre in faccia. Qualche ma invece ormai, presidente Roberta, del sì. Io credo che ormai l'abbiamo capito come funziona. Cioè, io stessa, se vado in pineta, dentro la pineta me la tolgo la mascherina. Se sto sulla spiaggia da sola me la tolgo la mascherina. Ma se io entro in uno stabilimento balneare, oppure sono in un parcheggio dove accanto ho altre macchine che stanno parcheggiando, anche se sono in uno spazio aperto, la mascherina la indosso. Cioè, è una questione di intelligenza e di sensibilità verso gli altri. C'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Barbara. Per chi non ce l'ha, quantomeno, magari gli facciamo un suggerimento, come a scuola, la mascherina. Senti, qui ci dobbiamo lasciare, ma ti leggo un'altra nota di Palazzo Chigi, dice a fine della riunione col Presidente del Consiglio e i ministri Lamorgese, Boccia, Catalfo sul progetto di assistenti civici, la Presidenza del Consiglio chiarisce che i ministri interessati al progetto proseguiranno le prossime ore nel mettere a punto i dettagli di questa iniziativa che mira, per il tramite della Protezione Civile, a soddisfare la richiesta di ANCI, cioè dell'Associazione dei Sindaci dei Comuni Italiani, di potersi avvalere per tutta la durata dell'emergenza sanitaria di soggetti chiamati ad espletare gratuitamente prestazioni di volontariato e che nelle prossime ore daranno poi indicazioni più precise su come funziona. Ora i dettagli, c'è scritto, soggetti potrebbero essere chiamati a prestazione di volontariato questi soggetti con finalità di mera utilità e solidarietà sociale anche attraverso la rete del terzo settore, cioè del volontariato. Barbara, qui ci dobbiamo lasciare, certo si prospettano dei giorni piuttosto caldi per Conte, no? Tra le regioni che vogliono capire dal 3 giugno questa circolazione tra le regioni, come funzionerà, per chi funzionerà, eccetera, più questa cosa degli assistenti civici. Sì, diciamo l'ultima cosa, cioè sì. Questa degli assistenti civici, appunto, ripeto, il tema c'è tutto, nel senso che anche se questa formula, secondo me, è anche un po' naif, quella degli assistenti civici, quindi non è che io peroro questa causa, dico solo però qual è la controproposta, cioè cosa si dà ai sindaci, perché parliamo sempre dei governatori, ma poi alla fine i sindaci sono quelli in tutte prima che si devono gestire più esposti. Legate seconda da pelare, cosa, chiaro. Il 3 giugno, vedremo, perché noi stiamo combattendo in Europa per chiedere regole uguali per tutti, cioè regole europee che valgono in Italia come in Austria. Sì, e quindi dici non si può troppo Germania, diversificare in Italia. Però poi i nostri governatori magari dicono che invece i lombardi devono rimanere a casa loro. Io non voglio rimanere a casa mia. Sia chiaro, Barbara, che non voglio rimanere a casa mia, quest'estate e non vale. Ma io ti invito l'anno. Sempre, va bene, l'hai detto, eh? Tutti hanno ascoltato, Barbara mi ha invitato, benissimo, preparo le valigie, preparami una stanza, qualcosa per me, va bene? Va benissimo, grazie Barbara Fiammeri, buona serata. Ciao Barbara, sei incastrata da sola Barbara Fiammeri, bene, qui ci dobbiamo lasciare, sei in ritardissimo, pausa di riflessione, torno ratta con la folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Senso di responsabilità, controlli delle forze di polizia, senza però essere uno stato di eccezione dove il colpevole è il cittadino. Qua sta diventando colpevole il cittadino che esce e si muove. Stanno a vedere se la mascherina te la sei messa sopra il naso un centimetro sopra. E questo, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, è il sindaco di Napoli, De Magistris, che pare invece contrario a controlli troppo serrati. Abbiamo appena parlato lungamente con il sindaco di Palermo, Luca Orlando, e poi con la nostra commentatrice politica, Barbara Fiammeri, degli assistenti civici che tanto, diciamo, in subbuglio hanno messo la maggioranza, e ci sono critiche però dall'opposizione, ma anche all'interno della maggioranza stessa, sia del Movimento 5 Stelle, in particolare nei confronti del PD e del ministro degli affari regionali Boccia. Suo sarebbe questo progetto, diciamo, in concomitanza con il presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, De Caro, di questi 60.000, un bando per 60.000 volontari che aiutino i sindaci a controllare le persone perché si mantenga il distanziamento sociale, che è indispensabile, lo sappiamo, per proseguire in questa fase 2 e non ritornare di nuovo al lockdown, ai morti, alle persone in terapia intensiva, eccetera. E dicevamo che il presidente del Consiglio Conte si trova in queste ore, in questi giorni, veramente in un clima di fuoco tra le mediazioni con le regioni che aspettano entro il 3 giugno le indicazioni per i trasferimenti da regione a regione, e poi questa cosa degli assistenti civici 10, per cui è appena finita una riunione a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Conte e diversi ministri per capire insomma che cosa devono essere questi assistenti civici. Allora intanto saluto, bentornato Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale di Funzionari di Polizia. Dottor Laquaniti, bentornato. Grazie, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Allora, siccome tra pochissimo c'è un'altra pausa, mi perdoni, intanto volevo sapere, poi vorrei capire anche la sua posizione su questi assistenti civici che qualcuno chiama guardie civiche, che sembra con una, diciamo, una notazione un pochino più repressiva, più inquietante, diciamo. Comunque, in questo primo fine settimana post lockdown, quindi quello che siccome è partito la seconda tappa dal 18 maggio, come sono andati i controlli, persone denunciate, sanzioni eccetera, se dovessimo fare un bilancio? Se facciamo un bilancio dobbiamo dire che le sanzioni sono state limitate, ma secondo me non sono lo specchio del comportamento di tantissimi italiani da nord a sud, perché tanto al nord quanto al sud, in questo non ci sono assolutamente differenze, moltissime piazze hanno mostrato assembramenti, hanno mostrato persone senza mascherine, hanno mostrato che in troppi forze hanno recepito in questa fase come la fine di tutto, come un liberi tutti che va tanto di moda. Da questo punto di vista quindi le immagini sono diverse rispetto a quello che è il numero delle sanzioni, anche perché dobbiamo dircela tutta secondo me in questo momento. Io capisco la difficoltà dei sindaci, perché vivo in una provincia dove il sindaco è stato, come posso dire, molto veemente nel criticare il comportamento dei veronesi, che in una serata hanno affollato Piazza Erbe, che è la piazza principale, più bella, più suggestiva di Verona. Lo stesso è successo a Brescia, lo stesso è successo in tantissime altre piazze. E c'è una difficoltà perché occorre, ce lo diciamo molto tranquillamente, prendersi a un certo punto una responsabilità gravosa per chi poi comunque deve essere rieletto, cioè o stringere chiudendo i locali, imponendo di nuovo che i locali possano aprire magari per orari limitati, che incomincia a diventare una soluzione, o passare a un'azione repressiva che però nel momento in cui, io su questo voglio essere molto chiaro, nel momento in cui l'azione repressiva era controllare le poche persone che uscivano, intercettare i pochissimi che infrangevano le regole, era più semplice. Qui adesso noi abbiamo piazze dove c'è un migliaio di persone, parlo di Verona 260.000 abitanti più o meno, un migliaio di persone, quindi non parlo della maggioranza, ma se queste 1.000 persone sono convinte che stare lì senza mascherina, senza distanza di sicurezza sia un loro diritto, e se nel momento in cui c'è un tentativo di ripristinare l'ordine, tutte insieme manifestano in modo veemente la loro contrarietà, lì non ci sono poi più mezze misure. Chiaro. Ecco perché io ho sentito con grande attenzione quello che hanno detto. Dottor Laquaniti, mi perdoni, prego. Però qui abbiamo una pausa, purtroppo c'è la viabilità e ci risentiamo subito dopo. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi e sempre ospite il dottor Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, con il quale stavamo parlando degli assistenti civici, oltre che al bilancio insomma di questo primo fine settimana post lockdown. Di cosa ne pensa? Intanto adesso un'ulteriore nota di Palazzo Chigi e anche del Viminale sul vertice che c'è stato sugli assistenti civici. Viene definito positivo e costruttivo dal Viminale, quindi dal Ministero dell'Interno, questo vertice con Conte e gli altri ministri interessati, dal ministero guidato da Luciano Lamorgese. Nel pomeriggio è arrivato un alto là a questa iniziativa. Dopo questo confronto sono stati meglio precisati, leggo, i contorni della nuova figura, che non avrà incarichi di pubblico servizio né potrà svolgere attività di polizia. Quindi Laquaniti, se lei dovesse dire appunto in sintesi che cosa pensa lei di questa di queste figure, anche se appunto è stato chiarito che non avranno ruolo di attività di polizia, insomma. Ma guardi, io non le nascondo le mie perplessità, perché giustamente i suoi ospiti hanno parlato di quanto costa assumere dei nuovi vigili, qualcuno ha fatto dei parallelismi con gli steward, che sono un esperimento di grande successo che abbiamo avuto nei nostri stadi. C'è un problema fondamentale però, secondo me, e cioè la preparazione di queste persone che andranno a fare questi, non diciamo controlli, questa moral suasion, non so come si dice, attività di dissuasione, attività di dissuasione. Attività di dissuasione in modo benevolo, senza avere alcun incarico di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Bene, noi prendiamo delle persone che, da quello che comprendo io, non avranno il tempo di fare un minimo corso di preparazione. Ora, avremo, se sono i numeri che ho letto, di diverse migliaia di questi volontari, che potranno essere persone dotate di grande calma, qualcuno sarà meno calmo e sarà un po' più nervoso, qualcuno cercherà di affermare un'autorità che non ha, qualcuno si sentirà intimorito e chiamerà le forze di polizia, e che quindi dovranno gestire situazioni complesse, perché nel momento in cui parte una diatriba, parte una lite, parte un alterco, la situazione diventa complessa. Il problema è questo: secondo me non si può prendere una persona e dall'oggi al domani farla diventare, senza alcun corso di formazione, perché i tempi evidenti non ci sono, un soggetto deputato a dialogare con la folla. Gli steward negli stadi fanno dei corsi, questo glielo dico perché li ho preparati io tanti anni fa, fanno dei corsi assolutamente seri, approfonditi, lo fanno in termini giuridici, lo fanno in termini di approccio, di gestione della folla, che è una cosa diversa dell'approccio one to one, cioè persona con persona. Chiarissimo, era interessante. Sì. E che sanno interpretare le dinamiche di massa, perché le dinamiche di massa sono pericolosissime, cioè quello che voglio dire è che io non metto in dubbio le buone intenzioni del governo, le enormi difficoltà del sindaco, cioè io il problema lo capisco. Capisco questa disperata ricerca di aiuto da parte dei sindaci, perché si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà, perché per loro l'alternativa, se no, è chiudere di nuovo i negozi con grandi drammi. Però non si può prendere, secondo me, la gente da oggi a domani di guarda, tu domani gestirai la folla e insegnerai loro come dottor ti Laquariti, è stato chiarissimo, purtroppo ci dobbiamo lasciare, ma ha espresso con molta chiarezza le perplessità da parte sua, appunto, e dei funzionari di polizia. Vedo, ha detto il sindaco De Caro, presidente dell'ANCI, che insieme appunto a Boccia aveva progettato questa cosa. Dice: chi pensa alle ronde, giustizieri improvvisati, non conosce le cose bellissime che i volontari hanno fatto in questi mesi. Dice: comunque noi sindaci siamo ormai stremati. Ci sentiamo presto, dottor Laquariti, grazie intanto. Grazie. Buon lavoro. Grazie a lei, buonasera, grazie. Grazie. Perché adesso devo correre da Enrico Pagliarini, che voi conoscete tutti, il venerdì 2024, il venerdì alle 22:05, la tecnologia portata di mano, dice: ci sono delle novità sull'app Immuni. La scorsa settimana c'era stata qui effetto notte la sottosegretaria alla salute Zampa, Sandra Zampa, che ha detto che a giorni praticamente partiva. Enrico. Buonasera, ciao. Dunque, l'app partirà, come è stato ormai più volte detto anche questa mattina su Radio 24, nella prima decade di giugno, molto difficilmente entro la fine del mese, nella prima parte di giugno. Ma abbiamo una notizia di pochi minuti fa, perché secondo l'ANSA ci sarebbe un accordo nel governo per sperimentarla in una prima fase in 3 regioni. Saranno Liguria, Abruzzo e Puglia. Adesso al momento non sappiamo quale sarà il meccanismo, perché comunque quando sarà disponibile tutti la potranno scaricare. L'altra notizia di oggi di cui si è parlato, e soprattutto stanno parlando gli esperti, è che il governo ha pubblicato parte del codice sorgente, non tutto, come promesso e come consuetudine è stato pubblicato su un sito che si chiama GitHub, che è il sito dove gli sviluppatori pubblicano il software con cui sono fatte le applicazioni e lo mettono a disposizione degli esperti che lo vogliono analizzare. Ci vorranno alcuni giorni per fare una valutazione, per fare questa analisi. Comunque questa è sicuramente una buona notizia e un ulteriore passo verso questa applicazione, che appunto arriverà tra, direi, una 10-15 giorni. E che ci aiuterei a approfondire, a conoscere meglio naturalmente, e magari anche a scaricare, Enrico Pagliarini, giusto? Sì, scaricare sarà molto facile, quindi quella diciamo che è la parte più facile. Devo anche dire, ma proprio in 20 secondi, sì, che l'app è un pezzetto di un puzzle molto più ampio, perché sappiamo che una delle condizioni importanti di questo puzzle è riuscire a fare tamponi, perché se l'app ti avvisa, tu vai all'ospedale, devi fare il tampone, ma non te lo fanno, chiaro, diciamo che serve fino ad un certo punto, no? Se va, comunque dire, ci torneremo sicuramente. Molto bene, a ben presto, grazie Enrico Pagliarini. Sì. Ciao Enrico. Buona serata. Ciao caro, anche a te. Ci sentiamo a momenti.